Il terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Abbiamo lasciato la volta scorsa Nikolai, Natasha e Petia, stanchi e affamati dopo la caccia, nella casa dello zio, che fa imbandire per loro una merenda. Il racconto di questo momento è così bello che riprenderei subito a leggere dal punto in cui ci eravamo fermati. Rostov e lo zio, annaffiando la cena con liquore di ciliegie, discorrevano di cacce passate e future. Natasha, con gli occhi sfavillanti, stava a sedere sul divano, dritta dritta, e li ascoltava. Parecchie volte s'era provata a svegliare Petia per fargli mangiare qualche cosa, ma egli diceva nel sonno parole incomprensibili e non si svegliava. Natasha si sentiva l'anima così allegra, stava così bene in quella casa nuova per lei, che temeva soltanto che il carrozzino venisse troppo presto a prenderla. Dopo uno di quei silenzi fortuiti, che quasi sempre si fanno quando uno riceve per la prima volta in casa sua dei conoscenti, lo zio disse, rispondendo al pensiero dei suoi ospiti: «E così termino la mia vita. Si muore, benone avanti, e non resta nulla. A che serve allora peccare?» Il viso dello zio era molto espressivo e anche bello mentre diceva questo. Rostov involontariamente si ricordò di tutto il bene che aveva inteso dire dello zio da suo padre e dai vicini. Lo zio aveva in tutto il distretto la fama di un originale pieno di nobiltà e di disinteresse. Lo chiamavano a decidere questioni di famiglia, lo nominavano esecutore testamentario, gli confidavano segreti, lo sceglievano come giudice o per altri uffici, ma egli rifiutava ostinatamente gli impieghi pubblici, passando l'autunno e la primavera nei campi, sul suo castrone sauro, restando a casa l'inverno e sdraiandosi l'estate nel suo giardino incolto. «Perché non prendete servizio, zio?» «Ho servito e ho piantato lì. Non ci sono adatto. Benone, avanti! Non ci capisco nulla. È roba per voi altri, ma io non ho la mente fatta per questo. Se si tratta di caccia, è un altro affare. Allora, benone, avanti!» «Ma aprite la porta!» gridò. «Perché avete chiuso?» La porta, in fondo al corridoio, conduceva alla disabitata stanza di caccia. Così era chiamata la camera dei cacciatori. Ci fu uno stropiccio di piedi scalzi che camminavano rapidamente e una mano invisibile aprì la porta della stanza di caccia. Dal corridoio si udì chiaramente il suono di una balalaica, maneggiata di certo da qualche maestro d'arte. «È il mio cocchiere Mitka. Gli ho comprato una buona balalaica. Mi piace», disse lo zio, che seduto ascoltava, con la testa un po' inclinata da una parte e un sorriso impercettibile. Natasha gettò via lo scialle che la ravvolgeva, corse davanti allo zio e, mettendosi i pugni sui fianchi, fece un movimento con le spalle e si fermò. Dove? Come? Quando? Quella contessina educata da una emigrata francese aveva assorbito, con l'aria russa da lei respirata, lo spirito che l'animava. Eppure erano quello stesso spirito e quegli stessi modi russi, inimitabili e inapprendibili, che lo zio si aspettava da lei. Ella fece tutto così bene, così a puntino, che Anisia Fyodorovna, comparsa di nuovo sulla porta, ebbe fra le risate le lacrime agli occhi, guardando quella esile contessina così graziosa, così diversa da lei, allevata nella seta e nel velluto, e che pure sapeva capire tutto ciò che v'era in lei, Anisia, e nel padre di lei, e nella zia, e nella madre, e in ogni persona russa. «Su, contessina, benone, avanti!» disse lo zio, ridendo di gioia, terminata la danza. «Ah, nipotina, ecco, ora non devi far altro che sceglierti un bravo marito. Benone, avanti!» «È già scelto», disse sorridendo Nikolai. «Oh!» disse lo zio sorpreso, guardando interrogativamente Natasha. E Natasha, con un sorriso felice, chinò il capo affermativamente. «E che marito?» disse. Ma appena l'ebbe detto, un nuovo genere di pensieri e di sentimenti sorse in lei. Che voleva dire il sorriso di Nikolai quando ha detto «è già scelto»? È contento della cosa o no? All'aria di credere che il mio Balkonski non sarebbe capace di approvare o di capire questa nostra gioia. No, capirebbe tutto. Ma dov'è adesso? Pensava Natasha, e ad un tratto il suo viso si fece serio. Ma ciò durò soltanto un momento. Verso le 10 arrivarono per Natasha e per Petia un legno, un carrozzino e 3 uomini a cavallo, mandati a prenderli. Il conte e la contessa non sapevano dove fossero ed erano molto inquieti, come disse il messo. Com'è delizioso quello zio, disse Natascia quando furono giunti sulla strada maestra. Sì, disse Nicolai. Non hai freddo? No, sto ottimamente, ottimamente. Mi sento così contenta, disse Natascia, perfino con un certo stupore. Tacquero per un pezzo. La notte era scura e umida. I cavalli non si vedevano, soltanto si sentivano sciabottare nella mota invisibile. A che pensavi adesso, Nicolenka? Domandò Natascia. Essi amavano chiederselo l'uno all'altro. Io? Disse Nicolai cercando. Ecco, vedi, da principio pensavo che Rugai, quel cane rosso, somiglia allo zio. E se fosse un uomo, terrebbe sempre lo zio con sé. Se non per correre, per gli accordi, lo terrebbe sempre. Com'è armonico lo zio, vero? E tu a che pensi? Io? Aspetta, aspetta. Prima pensavo che noi ce ne andiamo così e crediamo di andare a casa, e invece Dio sa dove andiamo in questa oscurità. E tutto a un tratto arriveremo e vedremo che non siamo a Otradnoje, ma nel regno delle fate. Poi pensavo... No, niente altro. Lo so, di certo hai pensato a lui, disse Nicolai sorridendo, come Natascia capì dal suono della sua voce. No, rispose Natascia, benché effettivamente avesse pensato al principe Andrei e a come gli sarebbe piaciuto lo zio. Ma mi ripeto ancora, mi son ripetuta per tutta la strada come camminava bene Anisiushka, disse Natascia, e Nicolai udì il suo riso sonoro, senza motivo, felice. Ma sai, disse ella a un tratto, io so che non sarò mai più felice e tranquilla come ora. Sciocchezze, follie, disse Nicolai, e pensò, com'è deliziosa questa mia Natascia. Non ho un altro amico come lei, e non l'avrò mai. Perché si marita? Vorrei sempre passeggiare così con lei. Com'è delizioso questo Nicolai, pensò Natascia. Ah, c'è ancora il lume nel salotto, disse ella, mostrando le finestre della casa, che risplendevano con bel effetto nell'umida, vellutata oscurità della notte. Come abbiamo già detto più volte, la situazione economica di Rostov continua a peggiorare. E la madre di Nicolai si rende conto che la sola speranza è che il figlio sposi una ragazza ricca e dunque mette gli occhi su Julie Karagina e scrive alla madre della ragazza ricevendone una risposta abbastanza incoraggiante. E così Nicolai si trova di fronte al dilemma tra l'amore di Sonia, che è povera, e anche l'idea che lo seduce di sacrificarsi per la famiglia. Insomma, in casa Rostov non regna l'allegria. E anche Natascia, benché sempre innamorata, dopo 4 mesi di separazione da Andrei, inizia a provare dei momenti di tristezza. Arrivano intanto le feste di Natale e, per ammazzare la noia, un giorno in casa Rostov i giovani si travestono per recarsi a cena da Pelageia Danilovna Meliukova. Il costume di Sonia era il più bello di tutti. I baffi e le sopracciglia le stavano magnificamente. Tutti le dicevano che era molto bella e lei si trovava in uno stato d'animo animato ed energico che non le era abituale. Una specie di voce interna le diceva che la sua sorte si sarebbe decisa quella sera o mai più, e nel suo abito maschile ella sembrava assolutamente un'altra. Dopo una mezz'ora, 4 tiri e 3, con bubboli e sonagli, con pattini che stridevano e fischiavano sulla neve gelata, si avvicinarono alla porta d'ingresso. Nella slitta di Nicolai presero posto Natascia, Sonia, Madame Schoss e 2 cameriere. Nella slitta del vecchio conte, Dimmler con la moglie e Petia. Nelle altre si distribuirono i domestici travestiti. Dapprima si andò a piccolo trotto per la strada stretta. Nicolai diede un'occhiata a Sonia e si chinò per vederla bene in viso. Un viso del tutto nuovo, grazioso, con sopracciglia e baffi neri, spuntava dalla pelliccia di zibellino, vicino e lontano a un tempo, in quel chiaro di luna. Questa una volta era Sonia, pensò Nicolai. La fissò più d'appresso e sorrise. Che avete, Nicolà? Niente, disse egli, e si voltò di nuovo verso i cavalli. Sbucati nella grande strada battuta, resa lucente dai pattini e tutta solcata dalle tracce dei ferri da ghiaccio che si vedevano al lume di luna, i cavalli si misero da loro stessi a tendere le redini e ad accelerare l'andatura. «Dove siamo?» pensò Nicolai. «Deve essere il Prato Kozoj. Ma no, questo è un posto nuovo, che non ho mai veduto. Non è né il Prato Kozoj, né la collina di Diomkino, e Dio sa che cos'è. È qualcosa di nuovo e di magico. Beh, qualunque cosa sia». E dando la voce ai cavalli, si mise a oltrepassare il primo tiro a 3. Nicolai si guardò intorno. Intorno c'era sempre quella pianura incantata, imbevuta tutta di luce lunare e disseminata di stelle. Una foresta incantata, con ombre nere fuggenti e splendori di diamanti, e una filata di scalini di marmo, e certi tetti d'argento da palazzi di fate e gli urli acuti di chissà quali fiere. Ma se questa è proprio Melyukovka, è ancora più strano che noi, andando Dio sa dove, siamo capitati a Melyukovka, pensò Nikolai. Difatti era Melyukovka, e sulla porta vennero di corsa cameriere e servitori con le candele e dei visi allegri. E a casa di Pelageia Danilovna, dopo i balli russi e dopo il trescone, si organizzano dei giochi. Nel corso di uno di questi, Sonia deve uscire. E noi leggiamo il passo relativo. Sonia uscì nel corridoio per andare nel granaio. Nikolai andò in fretta sulla scalinata d'ingresso dicendo che aveva caldo. Difatti in casa si soffocava per via di tutta quella folla di gente. Fuori c'era quello stesso freddo immobile, quella stessa luna di prima, ma la notte era ancora più chiara. La luce era così forte e c'erano tante stelle sulla neve che non si aveva voglia di guardare il cielo e le stelle vere non si osservavano. Su in cielo era buio e triste e sulla terra c'era l'allegria. Stupido che sono, stupido! Perché ho aspettato finora? Pensava Nikolai. E scesa di corsa la scala, girò l'angolo della casa per quella viottola che conduceva alla porta di servizio. Sapeva che di là doveva passare Sonia. Si sentirono dei passi su per gli scalini, uno scricchiolio sonoro sull'ultimo scalino sul quale era ammassata la neve e la voce di una vecchia cameriera disse «Dritto, dritto per il sentiero, signorina, ma voi non vi voltate indietro!» «Io non ho paura», rispose la voce di Sonia, e per la viottola in direzione di Nikolai scricchiolarono e stridettero le scarpette sottili che calzavano i piedini della ragazza. Sonia camminava ravvolta nella pelliccia. Era già a due passi da lui quando lo vide. Vide anche lei un uomo diverso da quello che conosceva e di cui aveva sempre avuto un poco paura. Egli era in abito da donna, coi capelli arruffati e un sorriso di felicità, nuovo per Sonia. Sonia corse subito verso di lui. «Tutto un'altra, eppure sempre la stessa», pensava Nikolai, guardando il viso di lei tutto illuminato dalla luce della luna. Egli infilò le mani sotto la pelliccia che le copriva la testa, l'abbracciò, la strinse a sé e la baciò sulle labbra, sopra le quali c'erano i baffi e che odoravano di sughero bruciato. Sonia lo baciò in mezzo alle labbra e, tirando fuori le sue piccole mani, lo prese per le guance da tutte e due le parti. «Sonia, Nicolà», dissero soltanto. Corsero verso il granaio e tornarono indietro, ciascuno dal suo ingresso. Poco dopo le feste di Natale, Nikolai dichiarò alla madre il suo amore per Sonia e la sua ferma decisione di sposarla. La contessa, che da un pezzo si era accorta di ciò che accadeva fra Sonia e Nikolai e si aspettava quella dichiarazione, ascoltò in silenzio le sue parole e disse al figlio che egli poteva sposare chi voleva, ma che né lei né il padre gli avrebbero mai dato la loro benedizione per quel matrimonio. Per la prima volta Nikolai sentì che la madre era scontenta di lui e che, malgrado tutto il suo affetto per lui, non avrebbe ceduto. Con la ferma intenzione di sistemare i suoi affari al reggimento, lasciare il servizio attivo, tornare e sposare Sonia, Nikolai, triste e preoccupato, in disaccordo coi genitori ma, secondo quel che gli sembrava, appassionatamente innamorato, al principio di gennaio partì per il reggimento. Dopo la partenza di Nikolai, in casa Rostov regnò più che mai la malinconia. La contessa, per tutti quei patemi d'animo, si ammalò. Sonia era triste per la separazione da Nikolai e anche più per quel tono ostile che la contessa non poteva fare a meno di prendere con lei. Il conte più che mai era preoccupato per il cattivo andamento degli affari che richiedevano misure decisive. Era necessario vendere la casa di Mosca e la villa vicina e per la vendita della casa bisognava andare a Mosca. Bisognava fare il corredo, bisognava vendere la casa e inoltre il principe Andrei era atteso là. E Natascia era sicura che egli fosse già arrivato a Mosca. La contessa restò in campagna e il conte, prendendo con sé Sonia e Natascia, alla fine di gennaio partì per Mosca. Intanto Pierre, che è sempre più insoddisfatto della sua vita a Pietroburgo, parte per Mosca, dove si mette a condurre vita mondana per non affrontare i problemi che lo assillano, e riprende anche a bere. Al principio dell'inverno giungono a Mosca anche il principe Nikolai Andreevich Volkonsky, molto invecchiato, insieme alla figlia Maria, che a Mosca non si trova bene fin da subito. Ha ormai abbandonato la speranza di sposarsi, non fa vita mondana e sente la mancanza dell'isolamento e delle conversazioni con la gente di Dio che la confortavano a Lisiegori. I rapporti tra padre e figlia sono sempre più tesi. Tutta la buona società moscovita frequenta la casa del vecchio principe, compresi Pierre Bezukhov e Boris Drubetskoy. Quest'ultimo sta cercando un ottimo partito come moglie e ha individuato due possibilità, Maria Balkonsky oppure Julie Karagina. Per motivi e con atteggiamenti diversi, entrambe le donne avrebbero un grande desiderio di maritarsi, ma a differenza della principessina Maria, la Karagina si dà molto da fare mondanamente per ottenere il suo scopo. E ci riesce, sposando dunque Boris Drubetskoy. E adesso riprendiamo la nostra lettura dal momento in cui i Rostov arrivano a Mosca e invece di recarsi a casa propria, troppo fredda per l'inverno e col riscaldamento spento, vanno ospiti da una vecchia amica del conte, Maria Dmitrievna Akhrosimova. Di sera a tardi, quattro grosse slitte dei Rostov entrarono nel cortile di Maria Dmitrievna. Essa viveva sola. Da un pezzo sua figlia era maritata e tutti i suoi figli erano in servizio. Stava sempre dritta come una volta. Diceva ad alta voce e risolutamente come sempre la sua opinione in faccia a tutti e con tutto l'essere suo sembrava rimproverare agli altri le debolezze, le passioni e gli errori di cui non ammetteva la possibilità. Fin dalla mattina presto, in camiciola, si occupava delle faccende di casa. Poi, alle feste, andava a messa. E dalla messa andava nelle galere e nelle carceri, dove aveva sempre da fare, ma non ne parlava a nessuno. E i giorni feriali riceveva in casa gente di diverse classi che veniva ogni giorno a raccomandarsi a lei, e poi pranzava. Al pranzo, abbondante e succulento, prendevano parte tre o quattro ospiti. Dopo il pranzo faceva una partita di Boston. La sera si faceva leggere i giornali e i nuovi libri, mentre intanto lavorava a maglia. Raramente faceva qualche eccezione ed usciva, ma se usciva andava soltanto dalle persone più importanti della città. Non era andata ancora a letto quando giunsero i Rostov e la porta dell'anticamera, stridendo sui cardini, lasciò entrare insieme al freddo di fuori i Rostov e la loro servitù. «Roba del conte, portate qua», disse, indicando le valigie e senza salutare nessuno. «Le signorine qua, a sinistra». «Ebbene, perché vi gingillate voi altre?» gridò alle cameriere. «Accendete il samovar». «Sei ingrassata, sei imbellita», proferì, attirando a sé Natascia che, sotto al cappuccio, era tutta rossa dal freddo. «Come sei gelata! Su, su, spogliati in fretta!» gridò al conte, che voleva andare a baciarle la mano. «Sei ghiacciato, no? Servite del rum col tè! Sonishka, bonjour!» disse a Sonia, attenuando con questo saluto francese il suo modo leggermente sprezzante e benevolo di trattare Sonia. Quando tutti, dopo essersi spogliati ed essere tornati in sé dopo il viaggio, vennero a prendere il tè, Maria Dmitrievna li baciò tutti, uno dopo l'altro. «Sono profondamente contenta che siate venuti e che vi fermiate da me», disse. «Era tempo», aggiunse, guardando significativamente Natascia. «Il vecchio è qui e si aspetta il figlio di giorno in giorno. È necessario, è proprio necessario fare conoscenza con lui. Basta, basta, di questo parleremo poi», aggiunse, guardando Sonia con uno sguardo che voleva dire che in presenza sua non voleva parlare di queste cose. Il giorno dopo, alla mattina, Maria Dmitrievna portò le signorine alla Vergine di Beria e da Madame Aubert Chalmé, la quale aveva tanta paura di Maria Dmitrievna che sempre le dava i vestiti a perdita pur di levarsela al più presto di torno. Maria Dmitrievna ordinò quasi tutto il corredo. Tornata a casa, cacciò via tutti dalla stanza fuorché Natascia e si fece accostare la sua preferita alla poltrona. «Su, ora discorriamo un po'. Mi congratulo con te per il tuo fidanzato. Hai trovato un giovane eccellente. Sono contenta per te. E lui lo conosco da quando era alto così», e accennò a un braccio da terra. Natascia arrossì di piacere. «Voglio bene a lui e a tutta la sua famiglia. Ora ascolta. Tu sai bene che il vecchio principe Nicolai non desiderava punto che il figlio si sposasse. Vecchio capriccioso. Certo, il principe Andrei non è un bambino e farà a meno del suo consenso, ma non è bello entrare in una famiglia a contragenio. Bisogna entrarci di buon accordo, con l'affetto. Tu sei intelligente, saprai fare come si conviene, farai le cose con dolcezza e con bel garbo, e tutto andrà bene». Natascia taceva. E Maria Dmitrievna pensava che fosse per timidezza. Ma in sostanza a Natascia era sgradito che si entrasse nella faccenda del suo amore per il principe Andrei, che le sembrava così diverso da ogni altra cosa umana che, secondo lei, nessuno lo poteva capire. Ella amava e conosceva soltanto il principe Andrei. Lui amava lei e doveva arrivare fra giorni a prendersela. A lei non occorreva nulla di più. «Vedi, io lo conosco da un pezzo e voglio bene anche a Mashenka, tua cognata». «Cognate, scenate. Ah, questa qui non farebbe male a una mosca. Mi ha chiesto di farla incontrare con te. Domani ci andrai con tuo padre e guarda di essere molto affettuosa con lei. Sei più giovane di lei. Quando il tuo fidanzato verrà, bisogna che tu conosca già la sorella e il padre e che ti vogliano bene. È così o no? Non sarà meglio?» «Sì», rispose Natasha di controvoglia. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it. Thank you.